Ho visto un uomo che moriva per amore, ne ho visto un altro che più lacrime non ha, nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io voglio dimenticare, capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazze per me, solo per me. Una la voglio perché sa bene ballare, una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore, una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me. 10 ragazze così che dico solo di sì. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto, perché forse non sa che possa averne una per il giorno, una per la sera. Però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera. 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io voglio dimenticare, capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazze per me, solo per me. Conosce perché ha detto una cosa vera. 10 ragazze per me, 10 ragazze per me, 10 ragazze per me, però io muoio per te.